Sabini ogni mattina presto veniva a trovarmi. La forte complessione mi aiutava a superare quella lotta fisica e morale cui ogni altra donna avrebbe forse dovuto soccombere. Nondimeno, mi astenni tenacemente da qualsiasi alimento e il medico si avvide che la mancanza di cibo andava scemando le mie forze con sempre maggiore rapidità. La mattina dell'undicesimo giorno mi ritrovò in uno stato di estrema depressione. Io non potevo più alzare il braccio smunto e solamente a sollevare il capo dall'origliere svenivo. Tanto inoltrata era l'estenuazione che, divenuta incapace di scendere dal letto, io non potevo, come era solita, mettere la sera il chiavistello all'uscio di quel tugurio. Sabini, per salvarmi, immaginò un pietoso ripiego. Governatore del Ritiro era un caracciolo, principe di Cellamare, di cui egli era ugualmente il medico. Più di una volta egli mi aveva detto che aveva tenuto parola di me col principe. Una mattina, dunque, ridendo e stropicciandosi le mani, «Allegra, signorina!» mi disse, «vi porto buone nuove!» Fatto uno sforzo, mi volsi a lui. Ieri sera, soggiunse, il principe vi raccomandò caldamente alle autorità, le quali condiscendono, appena convalescente, di farvi uscire. Il cuore mi cominciò a battere tanto forte che non so come non rimanessi colpita da sincope. Dunque sarò scarcerata? Dissi, sforzandomi di riprendere la lena che mi mancava e di stendergli la destra. Di certo, riprese egli. E però bisogna rimettersi in forze, poiché non voglio che uscita di qui facciate paura alla gente. Presto, signora priora, fatele portare del brodo. Un momento dopo, la conversa ne portava un poco che il medico stesso, sorreggendomi sul capezzale, con carità paterna, mi faceva prendere a cucchiaiate. Alla terza cucchiaiata, la vista mi si offuscò e prima di potermi rimettere sul guanciale, rigettai quella magra e scarsissima sostanza. Lasciamola in calma, disse Sabini, troppo avanzata è la spossatezza. Ora le scrivo un calmante che le somministrerete ogni mezz'ora. Io mi era lasciata prendere all'esca. Più del brodo e della ricetta m'avevano rianimata le parole del medico. Il giorno appresso stava meglio. Continuavano tuttavia a funestarmi le apparizioni, effetto dello sconcerto mentale, ma la speranza, supremo specifico, qual sollievo mai non reca al disperato. Dopo 4 giorni il miglioramento era grande. Il sesto Sabini chiese al parlatorio le mie nuove, ma non salì. Sul finire della settimana io ricominciavo pian piano a cibarmi, ma frattanto Sabini non si faceva rivedere. Mossane qualche lagnanza alla priora, ottenni che fosse richiamato. Ehi, venne alfine. Com'ebbi avuto contezza della mia salute, gli domandai del giorno in cui mi sarebbe stato comunicato il permesso di uscita. Ehi, mi rispose in termini evasivi. Non mi tolse la speranza della redenzione per non farmi ricadere, ma disse non potermene precisare il momento. Ahimè, ivi a poco acquistava l'amara certezza d'essere stata pietosamente ingannata. Piansi come donna non ha pianto mai. Nuovamente mi diedi alla più smoderata disperazione. Non seppi a quale estremo partito appigliarmi, ma non ebbi più il coraggio o la pusillanimità di troncare i miserandi miei giorni per mezzo del digiuno. In questo mentre mia madre era tornata da Gaeta. Informata dalla sorella che le lettere mie subivano al parlatorio una sorte pari a quella che in tutti gli uffici postali del regno subiva la corrispondenza del pubblico, mi rese conto del suo operato in termini del tutto inintellegibili. Ma l'inciampo non mi scoraggiò. Bene conoscendo l'altiera e risoluta indole di lei, poteva io dubitare che dopo l'affronto ricevuto fosse ella donna da starsene con le mani alla cintola. In uno dei miei lucidi intervalli, e ne avevo allora di più frequenti, concepii un ingegnoso sotterfugio. Domandato alla priora chi avrebbe preso cura della mia biancheria e avuto in risposta che le sue converse non avevano il tempo, ne feci un fagotto per mandarla in casa di mia madre e nella cocca annodata di una pezzola avvolsi un biglietto col quale chiesi contezza di ciò che l'aveva operato per me. La biancheria mi veniva restituita 3 giorni dopo e nello stesso nodo trovai la risposta. Scriveva mia madre, avere parlato col re ed anche con la regina, entrambi aver detto doversi la faccenda trattar piuttosto con l'arcivescovo, non essendo use le loro maestà di mischiarsi in affari di chiesa. Credere del rimanente le medesime che il suonare l'organo o il cantare i vespri fosse occupazione più confacevole a una monaca che non il cospirare all'aria aperta coi nemici del trono e dell'altare. Verun dubbio, dunque, restava non più un solo, ma due poteri locali mi tenevan dietro, la polizia e l'arcivescovado. A dire il vero, i sospetti della polizia borbonica non erano ingiusti. Sortito avendo dalla natura bollenti passioni, immaginazione mobile, volontà forte abbastanza da lottare contro le seduzioni del sentimento e contro la corrente delle abitudini, io ho mirato alla reintegrazione della libertà nella terra nativa, prima ancora che la storia romana e gli annali delle nostre repubbliche mi avessero ammaestrato sui destini di essa. I libri, i giornali, il consorzio degli uomini di tempera vigorosa, soprattutto l'ammirando esempio degli altri popoli, più di noi inoltrati nella carriera della civiltà, fecero divampare nell'animo mio quel fuoco sacro dell'amor patrio. Da quel punto presi ad esecrare l'aquila imperiale e i principotti suoi satelliti e la depravazione del nostro sacerdozio e la strisciante cortigianeria dei nostri baroni, con quell'odio stesso, odio inesorabile, con che i saraceni furono detestati dagli spagnoli e i turchi dai greci e i russi dai polacchi, e la pirateria barbaresca da tutta quanta la cristianità. Né ambiziosa ad aggregarmi pur io all'apostolato di sinobile missione, cessai da allora in poi di cercare all'ombra della cocolla quel centro occulto di operazioni che metter potesse in esercizio la mia operosità. Picchiai lungamente senza aver risposta, ma finalmente mi venne aperto. Sorsero allora per me momenti di esaltazione e di entusiasmo nei quali ebbi l'arroganza di credere che se tutte le donne pensassero e sentissero a modo mio, neppure una sola oste barbarica sarebbe mai calata in Italia, o almeno l'Italia l'avrebbe da lungo tempo finita con l'opera devastatrice dei tiranni. Non erano dunque privi di fondamento i sospetti della polizia, ma chi l'aveva messa sulle mie tracce? Io non lo so, né mi importa saperlo. Comunque sia, sì, io perdeva l'ultima speranza di riveder la luce. A questi motivi di sconforto, un altro e più irritante mi sopravvenne. Reluttando agli ordini replicati della curia di indossare l'abito monastico, io ricevei l'ordine perentorio di riprendere lo scapolare entro 3 giorni, sotto l'alternativa di vedermi confinata in un ritiro di provincia e passare il resto della mia vita nella separazione illimitata da parenti e dal mondo. Rindossare quell'odiata insegna dell'inerzia, dell'ignoranza, dell'egoismo innalzato a dignità di dottrina, ricadere per sempre senza speranza di riscatto sotto la verga di un'ignorante fanatica badessa. Ah, seppellire nel marciume di un chiostro murato e ferrato la voce della ragione, del cuore, della volontà. A quest'orribile idea la mia povera mente, già sconcertata, subì l'ultimo crollo. Ho detto che in un ripostiglio del mio baule stava nascosta qualche cosa che sfuggì alla perquisizione dei preti. Quel segreto conteneva un fascio di carte rivoluzionarie in cifra, un pugnale e una pistola, oggetti appartenenti ad un mio cognato e da lui a me dati in deposito sin da quando io dimorava nel conservatorio di Costantinopoli. Era la notte del 16 luglio, un'ora prima della mezzanotte. Dopo d'aver piegato il ginocchio a piè del letto e innalzata la preghiera dei moribondi al Dio della misericordia, scrissi l'ultima lettera a mia madre, lettera palpitante di affetti e tutta bagnata di lacrime. Io le diceva: «Ah, all'enormità delle mie pene non presterà fede se non chi ne abbia provato una parte. Esistere e credere di sognare, quel perpetuo affannarsi a sormontare il cavallone che vi incalza e sta per ingoiarvi, senza speranza alcuna di riguadagnare la riva, quell'essere sepolto vivo e risvegliarsi inchiodato nel buio della bara. Ah, mamma, credetemi, sono tormenti atroci. Cara mamma, questa vita che voi mi deste altro non è più per me che un supplizio. Che vale l'esistenza se è cieca di libertà e di coscienza, se è condannata all'atrofia, mentre le altre creature di Dio respirano, il nativo elemento, libere, prospere e sane quanto gli uccelli dell'aria. Siate perciò la prima a perdonarmi e vogliate difendere la mia memoria quando l'unica traccia che lascerò al mondo di me sarà la vostra commiserazione». Terminata la lettera, che tutta bagnata di lacrime deposi aperta sul tavolino, aprii il baule e, tratto dal segreto lo stile, mi ferii di fianco. O tu che leggi, non mi condannare, compiangimi, Rianda con la mente tutti i miei patimenti, mettiti nel mio miserrimo stato e piangi con me, che pure scrivendo di questo orribile momento mi sento profondamente commossa. Ah sì, io avevo tanto patito e patito che il lume della ragione era spento. Perdonami, lettrice, lettore, come spero m'abbia perdonato Iddio. Il polso debole e tremante diede poca forza al colpo. Una stecca di balena fece scivolare il ferro che strisciando sulla pelle la sfiorò. Avrei forse rinnovato il colpo, ma l'orrore e il ribrezzo che mi fece il freddo della lama mi risvegliarono da quel delirio. Non fa parte della legge divina anche l'istinto della propria conservazione? La voce interna che al disperato grida «Conservati!» non è forse quella d'un angelo custode che il cielo invia? Lo stilo mi cadde di mano, io mi posi tutta tremante a sedere. Non era scritto che dovessi morire in un accesso di demenza, omicida di me medesima. Vissi, piansi, patii ancora, e ne sia lode alla divina provvidenza, io sopravvissi a quell'era di ignominia e di servaggio. Nuovi tormenti m'aspettavano. Non paghi i preti d'avermi costretta ad incapperrucciarmi nuovamente. Vollero pur menarmi per confessore un religioso di loro fiducia, il padre 40, agostiniano. Trattandosi di un'anima dannata, la cui conversione non avrebbe forse mancato di essere ascritta a miracolo, scelsero quel religioso come colui che, salito in grido di ineluttabile facondia in odore di santità, di leggeri avrebbe vinta qualunque resistenza. Risolvei di non portarmi al confessionale. 40 mi fu condotto in camera tutti i giorni a mio dispetto e a ore indeterminate. Era egli un vecchietto smemorato, navigante a gonfie vele alla volta dell'imbecillità, il quale, troppo occupato dal fervorino che recitava tutto d'un fiato e a modo di scatola musicale, dimenticava da un momento all'altro le mie obiezioni. Il cicaleccio di quel rimbambito distruggeva i benefici effetti dell'ultima crisi della mia ragione. Protestai contro quella quotidiana molestia. Mi fu risposto che io non potevo stare senza il catechismo giornaliero del confessore. Mi avrebbero però mandato un tal Cutillo che in Napoli godeva la stessa reputazione di 40. «Poiché tanto lo decantate, tenetevelo per voi», risposi al prete superiore. «Se mi debbo confessare, voglio una persona di mia e non di vostra scelta». La priora m'aveva tenuto parola d'un vecchio canonico del vicinato, il quale spesso veniva a dir messa nella chiesa del ritiro, e si informava ogni volta della mia salute e del mio stato morale, e pietosamente a mio favore le raccomandava i riguardi che il dovere di priora e le mie peripezie richiedevano. Io lo conoscevo di fama, per uomo dotto, prudente e di illibata probità. Pregai dunque la priora di chiamarlo per confessore da parte mia. Mandò in risposta che accettava l'incombenza purché non intendessi di valermi della sua mediazione presso il capo della chiesa napoletana. Gli feci sapere che ero ben lungi dal pensiero di umiliarmi a costui ed egli venne. Ma la scelta di quell'egregia persona fu disapprovata da sua eminenza, non meno che dal superiore ecclesiastico dello stabilimento. E la ragione fu questa: il canonico era cristiano di cuore e di coscienza, non per spirito di partito o per orgoglio. Era ministro al servizio della sofferente umanità e non strumento di casta feroce. Egli, al contrario, stava molto al di sotto di lui, e per condotta morale, e per ingegno, e per dottrina. Ne conseguiva che, diametralmente opposta ai sentimenti del subalterno, essendo la condotta dei superiori, indarno avrebbero questi tentato di penetrare per mezzo del confessore nell'anima della penitente, se non che, vergognosi essi stessi di una disapprovazione che nulla poteva giustificare, furono più tardi costretti a rivocarla. E per tal modo, nei sinceri conforti profusimi da quel buon vecchio, ebbi la prova consolante che il cielo non mi aveva del tutto ritirata la sua clemenza. Ma, lo ripeto, un malanno porta l'altro. Il generale Salluzzi, che in tante e tante occasioni mi aveva dato prove di paterno affetto, fu, dopo gli ultimi avvenimenti, così severamente redarguito per la protezione che accordava ad una monaca cospirante contro il principe e ribelle ai voleri della Chiesa, che non osò più chiamarsi amico mio. Oltre a questa perdita che mi arrecò non piccola mortificazione, il re mi sospese ancora un assegno di annui ducati 60, ultimo mezzo del mio sostentamento. Di lì in poi, nonostante i sussidi della famiglia, furono molte le mie ristrettezze, obbligata a farmi tutto da me stessa, benché non assuefatta, per un'estate intera mi ristrinsi al solo pane e, per companatico, a qualche frutta, serbando la carne alle domeniche. In quanto alla mia sequestrazione, essa fu completa nei primi 6 mesi, ad eccezione del medico che in sul principio mi visitò, non mi venne fatto vedere per quel tratto di tempo altra figura umana, fuorché quella sgradevole di preti, di monaci e di monache, cosa che mi costrinse a carcerarmi nella mia propria stanza e mi ridusse al compiuto isolamento. Un solo filo di comunicazione mi conservava ancora in relazione col mondo di fuori. Era l'involto della biancheria, prezioso messaggero e confidente che mi tratteneva in sicuro carteggio con la madre. Con l'aiuto di pochi e scelti libri, quale noia non si rompe, quale tristezza non si dissipa, quale muto orrore non è rianimato. Defraudata di questo innocuo sollievo, mi fu giuoco forza a ricorrere alla lettura per fornirmi che fornirmi poteva Mondragone. Né mi pento d'averla accettata, anzi conserverò particolare memoria della vita delle sante martiri che vi trovai. Libro interessante che ho letto e riletto più volte, con edificazione e diletto grande. La casta poesia, il puro e santo zelo di quell'era cristiana, mi serviva di calmante nella lotta interna che mi agitava. Ammirabile secolo di riscatto in cui la donna, da ardente fede, da speranza, da carità sublimata, non solamente contese all'uomo il privilegio dell'eroismo, ma col sacrificio della giovinezza, della beltà, degli averi e della stessa esistenza, con la pratica di ogni virtù, seppe ancora eclissare e modestia di gerarchi e dottrine di scuola ed elucubrazioni di teologi. Chi può negare che uno fra i più meravigliosi prodigi della rivelazione sia questa novella devozione della donna alla riforma della società, al rinnovamento del genere umano? E questa fede, questa abnegazione che trae la femmina dal gineceo per menarla gloriosa sul rogo, non è ella già degna di ammirazione, più che non lo sia l'eroismo, in grazia del quale sono i nomi di Epaminonda e di Scipione celebrati nelle pagine di Plutarco? Questi e non altri esemplari vorrei che con mano diurna e notturna svolgessero le nostre giovinette nelle ore d'ozio. E quante ne dovetti passare in più di 3 anni di assoluto sequestramento? Materia di grata distrazione mi somministrarono gli insetti, soli viventi compagni del mio deserto. Quante ore non passai, assorta all'isocrono rosicchiare del tarlo, nel fracido tavolato delle porte e del soffitto. Quante volte non tesi lungamente l'orecchio ai gorgheggi di un canarino, la cui prigione, per quanto facessi, non m'era dato di discernere. Ma la pazienza e la giubilante superiorità del quale io invidiava dal fondo del cuore. In tempi d'estate ed autunno, una porzione del mio scarso pane era religiosamente riservata alle formiche. Adescate dalla mia ospitalità, esse affluivano in differenti repubbliche e sotto capi differenti nella mia stanza, ne prendevano imperturbato possesso, si aprivano ingressi e uscite a piacimento, montavano in lunga schiera su per le pareti o in diverse tribù affollandosi a me dintorno, facevano a gara l'una con l'altra per la briciola che io porgevo loro. Altra volta mi divertiva a guisa di Silvio Pellico, a contemplare la lotta della mosca caduta nelle grinfie del ragno, e a quella vista ricordava la massima di Anacarsi, che la giustizia del principe è tela di ragno, i piccoli insetti vi restano avviluppati e catturati, i grossi la squarciano e se ne vanno. In tempo d'inverno, poi, quello che più di ogni altro mi aiutò a passare le lunghe ed insonni nottate fu l'esercizio mnemotecnico. A forza di moltiplicare a mente dei numeri determinati, corroborai talmente la memoria che pervenni a trovare il prodotto di 2 fattori di 5 cifre ciascuno. Ma riprendiamo il filo del racconto. Era già molto tempo che io procedevo regolarmente il carteggio clandestino quando m'accadde di trovare nel nodo della pezzuola un dispaccio del seguente tenore. Cerca di ottenere un abboccamento dal nunzio apostolico. È persona da bene, lo potrai fare per lettera che manderai a me. L'abboccamento fu domandato e prestamente ottenuto. Il nunzio venne a Mondragone, non sì tosto ebbe ricevuta la mia lettera. All'annunzio della visita di un funzionario tanto eminente della Santa Sede, tutto il ritiro andò in trambusto. La priora, propensa ad arrogarsi l'onore della visita, corse precipitosa al parlatorio, ma quale fu il suo stupore, sentendo che il ministro del sommo pontefice domandava della sua prigioniera. Nell'incertezza se dovesse farmi scendere al parlatorio o piuttosto rispettare la proibizione, la povera donna rimase di sasso, né seppe che rispondere al funzionario. Io, che stava sempre in aspettazione di quella visita, appena udito un insolito andirivieni per i corridoi, uscii ratta dalla mia stanza, mi precipitai per le scale urtando le monache che sbalordite mi guardavano e lanciandomi nel parlatorio dissi con tono altiero alla priora: «Le vostre faccende vi richiamano altrove, lasciatemi sola, vi prego». Ella, confusa, si licenziò dal nunzio chiamandolo signor dottore e, volte le spalle, disse a mezza voce: «E se fosse pazza un'altra volta?» Il nunzio era un uomo nel fiore degli anni e garbatissimo. Fece le più alte meraviglie al racconto della mia odissea, ma non avendo giurisdizione diretta sul ritiro, si dolse con cortese sincerità di non potermi porgere l'aiuto che i miei tormenti reclamavano. Ciò nonostante, non prese congedo senza prima assicurarmi che avrebbe messo in opera ogni mezzo a fine di ottenere a mio favore, se non l'immediata uscita, almeno una diminuzione di rigore. Nel risalir le scale, vidi la priora costernata e in Parlamento con le sue monache. Approssimatami al crocchio: «Non vi date pena dell'avvenuto», dissi sorridendo alla prepositessa, «mandate pure a dire al cardinale che gli arresti li ho rotti io». Non riusciva nuova alla priora quest'aria di canzonatura. Io aveva preso da qualche tempo l'abito di burlarmi di loro o di farle arrabbiare con ogni sorta di dispettucci, memore del motto di quella briccona di Capua: «Per pigliar marito bisogna fare l'impertinente». La priora fece nota al prete superiore l'avvenuta infrazione e costui fu il primo che salì da me sbruffando fuoco e fiamme. Lo ricevei seduta, ridendo, guardandolo attraverso e dondolando una gamba sull'altra. «Chi vi ha dato l'ardire di scendere al parlatorio nonostante gli ordini dell'arcivescovo?» «Ardire fa rima con dormire», risposi. «Sapete, mannaggia, che avendo fatto i voti dovete prestare cieca obbedienza ai superiori che Dio vi ha dato? Presso quale evangelista si trova scritto che il nostro Signore m'abbia dato per superiore il reverendo cavaliere Don Pietro Calandrelli? Io sono vostro superiore, in nome della Santa Chiesa Cattolica!» «Che cosa intendete per Chiesa Cattolica?» «Intendo, signora mia, la padrona dei re, la rappresentante di Dio sulla terra, dico la Santa Sede e l'intero cattolicismo che le ubbidisce». «Non credo nella Santa Sede, col vostro buon permesso». «Dunque voi non siete cattolica?» «Boh, se quello che voi chiamate cattolicismo in mano al Papa, ai cardinali, ad altri vescovi e preti non dovesse essere altro che un mezzo di industria, una macchina di ignoranza e di servaggio, per fermo io non sarei cattolica». «E che cosa dunque sareste?» «Cristiana, e ci guadagnerai un tanto». «Oh, che orrore, che orrore!» gridò. «Sareste voi protestante?» «Scismatica?» soggiunse la priora. «Né l'uno né l'altro», ripresi io. «Sarò cristiana, di quel rito che favorirà la civiltà, il benessere, la libertà dei popoli. Ecco la fede mia, che pur sarà la fede dell'avvenire». «Voi siete una religiosa empia e sacrilega. Signora priora, vi raccomando di badar bene che il contagio di tali opinioni sataniche non infetti le giovanette innocenti del ritiro». «Non temete», soggiunsi io. «Qualche anno ancora e queste giovinette avranno scoperto e detesteranno le vostre imposture al pari di me». Ben lontano però eravamo ancora da tale meta. Il ritiro componevasi quasi per intero di giovani siffattamente allevate nel bigottismo e digiune di buona istruzione che malapena sapevano scrivere, e come poteva essere altrimenti, poiché Calandrelli era il collega del famigerato Monsignor Francesco Saverio Apuzzo. Quelle adolescenti, ogni volta che passavano davanti alla mia porta, sospirando, esclamavano: «Maronna delle grazie, salva l'anima sua, Dio mio, convertila!» Il superiore andava intanto ghiribizzando per riscoprire con qual mezzo avessi potuto trasmettere al nunzio la mia lettera. Furono interrogate una per una tutte le converse, ma nulla si poté sapere. Avuto alfine qualche sospetto sul fagotto della biancheria, l'inquisitore, mettendo in non cale ogni riguardo di decenza, ordinò alla priora di volerlo avvertire la prima volta che i miei panni dovevano essere mandati a casa. E così fu. Posto il ginocchio a terra, ebbe quel cavaliere dell'ordine di Francesco I la birresca impudenza di sciogliere il fagotto di propria mano e sventolare partitamente tutti, senza eccezione, i miei panni. Ma io, che m'aspettavo la perquisizione, gli avevo teso un bel laccio. Nella piega d'un asciugamano il reverendo trovò una lettera diretta a mia madre. Rizzatosi, gongolante in piedi e con mano tremante dall'impazienza, schiuse il corpo del delitto. Finalmente, disse alla priora, il topo è nella trappola. E senza mettere tempo in mezzo, cominciò a leggere ad alta voce. Alla quarta linea divenne pallido, a mezza lettera gli morì la voce fra i denti e seguitò a leggere solamente con gli occhi. In quel foglio io aveva scritto di lui ogni ben di Dio, gli davo dell'impudente, dell'ubriacone, del seduttore, del tanghero, eravi tra le altre cose ricordato un fatto vero, cioè che venendo ogni dopo pranzo avvinazzato, egli chiamava ora l'una, ora l'altra delle monachelle nella propria stanza e vi rimaneva lungo tempo da solo e col pretesto di farsi aiutare a recitare l'ufficio. La lista del bucato terminava col seguente epigramma: Vuol ragazze lezion Dio, non è prete anch'ei per Dio, prete o frate tanto basta, sono tutti di una pasta. Chiedo grazie al lettore di questa scappata. Voleva quasi toglierla, ma le memorie non sono, siccome la storia, obbligate a sopprimere il lato comico. La lettera fu messa rabbiosamente in pezzi e l'indomani della farsa. Veniva la priora a dirmi come Sua Eminenza, volendo per la mediazione del nunzio farmi partecipe degli effetti dell'inesausta sua misericordia, mi elargiva il permesso di scendere in parlatorio e consegnare sigillate le lettere al servitore di mia madre. Intanto l'egregio mio confessore non mancava di visitarmi 2 o 3 volte alla settimana. Io conferiva, o per meglio dire, combatteva lungamente con lui intorno ai principali punti della disciplina ecclesiastica e intorno al grado di rispetto che può il presente concedere all'autorità del passato. Pretendeva egli, fra le altre, che non solo mettessi in oblio le offese dei miei nemici, ma che inoltre li amassi con sincerità e ridivenissi di loro. Ora, non essendo più in mio potere di trapassare l'abito che mi separava al monachismo, egli rifiutavasi di accordarmi sì l'assoluzione che la comunione. Mi venne circa quel tempo l'idea di riscrivere a Roma e quest'amico, che faceva di tutto per calmarmi, si impegnò di far egli recapitare con sicurezza la mia istanza. Ottenuta questa promessa, scrissi una nuova petizione per cui chiesi direttamente al Papa l'uno dei due, o la secolarizzazione o il permesso di recarmi personalmente in Roma per far sentire le mie ragioni al Pontefice. Non ebbi la risposta che dopo molti mesi d'aspettazione. E quale risposta? Il Santo Padre non m'accordava né il permesso di trasferirmi in Roma né l'indulto di secolarizzazione. Tuttavia condiscendeva a permettere che fossi per l'avvenire dispensata dalla clausura. Quest'ultima concessione almeno mi dava speranza di uscire in quel modo che io usava nel conservatorio di Costantinopoli. Mandai dunque a domandare all'arcivescovado da qual giorno mi sarebbe lecito di uscire nella mattina dal ritiro. Non posso, rispose il cardinale, ritiro per le altre, clausura per lei. A tale risposta non seppi più frenarmi. 2 anni e mezzo erano trascorsi dal tempo del mio ingresso in quella catapecchia. Ordii nel pensiero un disegno di fuga e presi di mira l'Inghilterra o l'America, o nell'una o nell'altra di queste libere terre avrei trovato fratelli e compagni di esilio, ma propendevano i miei voti per quella che racchiude le spoglie di Foscolo. La portinaia scendeva la mattina per tempo sino alla porta di fuori, che apriva e nel risalire chiudeva l'altra di sopra, per modo che la scala rimaneva deserta. A metà di quella scala stanno le porte dei parlatori. Sarei scesa senza farmi vedere dietro alla portinaia e mentre ella starebbe aprendo il portone mi sarei nascosta in uno dei parlatori, avendo innanzi l'alba presa la cura di porre nella ruota che lì dentro si trovava un cappello con fitto velo e uno scialle. Risalita la portinaia e rimasta io chiusa da di fuori, mi sarei spogliata della tonaca per restare con l'abito secolaresco già indossato di sotto. Il cappello e lo scialle avrebbero compiuto il travestimento. Una gentildonna di mia conoscenza m'avrebbe attesa nella vicina via chiamata Le Rampe di Brancaccio. Dalla piazza del Vasto una carrozza m'avrebbe menata al molo e quindi mi sarei lestamente imbarcata sopra un legno inglese che si trovava in rada. Il mio progetto, agevole ad eseguire, non era noto ad altri che alla sola dama sommenzionata, la quale, dopo di avermi accompagnata a bordo, si sarebbe portata a mia madre con una lettera. Se non che, giudicando io l'onesto confessore incapace di tradire un segreto, volli metterlo a parte della mia risoluzione, a ciò che, dopo la fuga, potesse debitamente regolarsi. Gli spiacque il mio disdegno, lo confutò come imprudente e rischioso. «No», mi disse. Voi donna e giovine ancora e monaca, voi non dovete spatriare per recarvi in lontane contrade, priva di mezzi di sussistenza, priva di guida e di protezione. I nemici vostri ne gioirebbero. Restate, figlia mia, e date ascolto al consiglio di un vecchio che prende sommo interesse per voi. Questi accenti mi commossero, come quelli di un sacerdote rispettabile per saviezza e probità rara. Ma padre, risposi, riflettete voi che parlate ad una moribonda a cui non manca altro che l'estrema unzione. Che dico a una moribonda, a un cadavere? Qualunque altro scampo tenteremo, questo no. E quale dunque? Perché piuttosto non mandare a Roma un qualche vostro parente che faccia pratiche per voi? Scoraggiata nel primo disegno, quest'altro non mi parve da rigettarsi, tanto più che mi rimaneva pur sempre l'estremo compenso della fuga, ma a qual parente avrei confidata l'incombenza di Roma? E le spese? Provvederebbe Dio. A forza di fantasticare mi ricordai di una zia materna, educata in Bologna, che dotata di singolare operosità, meglio di chi che sia, avrebbe potuto assumersi tale incarico. La zia accettò volentieri, mia madre e le sorelle sborsarono il denaro necessario ed io, oltre il plico di tutti i rescritti sino allora ottenuti invano, le diedi un certificato dei due medici della comunità di Mondragone, certificato che, non dispiaccia alla lettrice, trascrivo qui per intero affinché gli sia note le mie condizioni fisiche e morali di quel tempo. In giugno del 1851, dal reale ritiro di Mondragone, ricevemo noi sottoscritti l'invito di visitare la nobile claustrale signora di Enrichetta Caracciolo di Forino, come che afflitta da patimenti nervosi. Osservatala, dunque, attentamente, con ogni possibile diligenza, raccogliemmo tutte le necessarie informazioni sul come e quando principiarono e si successero i sintomi convulsivi. Continuando in prosieguo a visitare la suddetta religiosa, ci toccò osservare che i perturbamenti nervosi hanno per centro la regione cerebrale. Infatti si manifesta nel capo, in sulle prime, una forte dolenza. Quindi sopravviene un brivido che invade tutto l'organismo e provoca un tremore generale. Poscia manifestansi penosi convellimenti, non solo degli arti superiori, principalmente del capo, ma sebbene degli inferiori e sovente di tutto il corpo, il quale allora si contorce in mille modi e ha bisogno, per essere contenuto nelle sue scosse, del vigore di più robuste persone. Un mattino, mentre facevasi la visita, l'inferma fu assalita di repente dalle sue croniche convulsioni. Esse furono talmente forti e tanto prolungate da ispirarci inquietudine sulla vita della sofferente. I polsi si erano oscurati, annientato lo stesso movimento del cuore, un pallore di morte, un raffreddamento generale, un sudore oleoso per tutta la superficie del corpo. Finalmente la deglutizione impedita, perché chiusa ermeticamente la bocca, già travagliata da trisma sensibile. Sovente a questi affliggenti spettacoli assistettero seco noi la signora priora del luogo e altre religiose. Le convulsioni sogliono durare da 3 a 4 ore, poi si dileguano lentamente per dar luogo a un delirio vago, a uno straordinario movimento del corpo, di tal fatta che la sofferente si direbbe colpita da un'alienazione mentale, quindi ad una specie di estasi e qualche volta fenomeni di catalessia. In seguito ad uno di questi accessi, la paziente tirossi al fianco un colpo di pugnale che per buona ventura non la espose al pericolo. Questa funesta ricorrenza si ripete spesso e sempre con gli stessi sintomi qui descritti, alla vista dei quali giova supporre che oltre alle cause fisiche anche delle potenti cagioni morali contribuiscano a mantenere tale stato morboso. E però ci prendemmo la cura di domandare alla stessa paziente quali potessero essere i motivi che tanto preoccupata e contristata la trattenevano. Ci confessò trovarsi lo spirito suo in uno stato di estrema violenza per dover starsi reclusa in un chiostro che aborriva. Per siffatta malattia fu adoperato non solo da noi, ma pur da altri valenti professori, quanto mai l'arte medica potea e sapea suggerire, ma sempre infruttuosamente, anzi con qualche peggioramento della paziente. Ora, a prevenire che la suddetta religiosa trabocchi in guai peggiori, cioè in uno stato di demenza continua, opiniamo di consenso con gli altri nostri colleghi, qui riuniti in consiglio, che debba ella abbandonare il regime claustrale, regime che essenzialmente influisce ad alimentare la narrata morbosità. Questa nostra dichiarazione, giurata in coscienza e risultante dall'osservazione di circa 20 mesi, non peccherebbe che di soverchia concisione, non portando descritte minutamente tutte quante le sofferenze dell'inferma. Napoli, 23 gennaio 1853, il medico consultante del luogo, dottor Pietro Sabini, il medico del luogo, dottor Alessandro Parisi.